Ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. 18ª puntata. Di nuovo l'alba. Sebbene Chris Sparkle e Jasper si incontrassero quotidianamente in cattedrale, mai, in nessuna occasione, venne fatto accenno a Edwin Drood dopo che, più di 6 mesi prima, Jasper aveva silenziosamente mostrato al canonico la conclusione cui era giunto e la decisione che aveva preso annotate nel suo diario. È improbabile che, incontrandosi, seppure con tanta frequenza, i loro pensieri non tornassero ogni volta sulla vicenda. È improbabile che, incontrandosi, seppure con tanta frequenza, ciascuno non sentisse che l'altro era per lui uno sconcertante mistero. Jasper, l'accusatore e persecutore di Neville Landless, e Chris Sparkle, il suo fedele difensore e protettore, dovevano perlomeno essere consapevoli di trovarsi su fronti opposti e interrogarsi con acuto interesse sulla fermezza e sulle possibili mosse future dell'avversario. Ma nessuno dei due intavolò mai il discorso. Non essendo il canonico portato alla finzione, indubbiamente manifestò la sua disponibilità a tornare sul tema in qualunque momento e il suo desiderio perfino di discuterne. L'ostinata reticenza di Jasper, tuttavia, non ammetteva approcci di questo tipo. Impassibile, taciturno, solitario, deciso, talmente concentrato su un'unica idea e su un unico scopo da non volerli condividere con nessuno, viveva una vita a parte. Pur esercitando un'arte che lo metteva in una condizione di meccanica armonia con gli altri e che non avrebbe potuto praticare se lui e gli altri non avessero condiviso un rapporto perfettamente meccanico e consonante, è curioso pensare che lo spirito dell'uomo non trovava sintonia o relazione morale con niente e con nessuno. Era proprio questo che aveva confidato al nipote scomparso prima che gli eventi ne motivassero l'attuale inflessibilità. Era indubbio che dovesse sapere dell'improvvisa partenza di Rosa e che ne dovesse intuire il motivo. Immaginava di averla indotta a tacere per il terrore? Oppure immaginava che lei avesse rivelato a tutti, per esempio allo stesso Chris Sparkle, i particolari del loro ultimo colloquio? Chris Sparkle non riusciva a chiarirsi le idee su questo punto. Tuttavia, da uomo giusto, non poteva non riconoscere che di per sé non era un crimine innamorarsi di Rosa, come non era un crimine voler anteporre l'amore alla vendetta. Lo spaventoso sospetto su Jasper, che Rosa con tanto orrore aveva accolto nella sua immaginazione, apparentemente non trovava spazio in quella di Chris Sparkle. Grugius non si sforzò di celare la sua implacabile ostilità a Jasper, senza tuttavia mai riferirla neppure lontanamente a quel motivo. Ma era un uomo reticente, come pure eccentrico, e non menzionò mai una certa sera nella casa di pietra, quando si era scaldato le mani davanti al fuoco e aveva contemplato un certo mucchio di abiti laceri e fangosi sul pavimento. La sonnolenta Cloisterham, quando si svegliava per riconsiderare momentaneamente una storia ormai vecchia di 6 mesi e archiviata dai magistrati, era piuttosto equamente divisa tra chi pensava che l'amato nipote di Jasper fosse stato ucciso dal suo focoso rivale a tradimento, a viso scoperto, e tra chi pensava che avesse preso il volo per motivi personali. Sonnolenta, sollevava la testa per osservare l'affranto Jasper ancora votato alla ricerca e alla vendetta, e poi si riappisolava. Così stavano le cose sui vari fronti nel periodo a cui è giunta questa storia. Le Le porte della cattedrale sono chiuse per la notte e il maestro del coro ha avuto un breve permesso di assentarsi per 2 o 3 funzioni. Rivolge la faccia verso Londra. Viaggia in quella direzione con lo stesso mezzo usato da Rosa e arriva, come è arrivata Rosa, in una sera soffocante e polverosa. Trasporta agevolmente in mano il suo bagaglio e si dirige a piedi verso un albergo promiscuo in una piazzetta dietro Aldersgate Street, vicino alla posta centrale. È albergo, pensione, alloggio ammobiliato, a seconda dei gusti del cliente. Negli annunci ferroviari si presenta come una nuova impresa commerciale che si affaccia timidamente alla ribalta. In modo schivo, quasi scusandosi, fa capire al viaggiatore di non aspettarsi che lui, secondo la buona vecchia consuetudine degli alberghi tradizionali, ordini una pinta di porto dolce e nero come il lucido da scarpe, per poi buttarlo via. Ma insinua che invece dello stomaco potrà farsi lucidare le scarpe e forse avere anche letto, colazione, servizio e un portiere alzato tutta la notte per una certa somma fissa. Mangia senza appetito e presto esce di nuovo, verso est. Sempre verso est cammina attraverso tediose strade finché raggiunge la sua destinazione, un sordido cortile più sordido di tanti altri. Sale una scala sconnessa, apre una porta e guarda dentro una stanza buia e soffocante e dice: «Sei sola qua dentro?» «Sola, gioia. Peggio per me e meglio per te», risponde una voce roca. «Entra, entra. Non importa te chi sei. Accendo uno zolfanello così ti vedo, ma mi pare che la tua voce la conosco. A te ti conosco, vero?» «Accendi e prova a guardare». «Certo, gioia, certo che ci provo. È che sta mano mi trema tutta e a accendere faccio fatica e sta tosse. Che i zolfanelli non ce li ritrovo mai dove li metto. Io tosso e tosso e quelli saltano e schizzano che sembrano vivi». «Che, te ne sei stato in viaggio?» «No». «Che, non ci vai per mare?» «No». «Vabbè, ci sta il cliente di terra e il cliente di mare. E io sono madre a tutte e due. Mica come Jack il cinese giù in fondo al cortile. Quello non è padre a nessuno. Non ce l'ha nel sangue. E manco c'ha il segreto per mischiarlo. E a te ti tocca pagare. E pure di più se ci scappa. Eccolo qua uno zolfanello. E la candela dove sta? Se mi piglia la tosse, 20 ne spengo prima che accendo». Ma trova la candela e l'accende prima che le torni la tosse. La scuote nell'attimo del successo e lei si siede, dondolandosi avanti e indietro e ansimando a tratti. «Ah, poveri polmoni miei, a pezzi ce l'ho, come una foglia di cavolo che gli resta solo le costole». Finché l'attacco passa. Fin tanto che ha durato, non ha avuto la forza di guardare, né altra forza che non fosse impegnata nella lotta. Ma quando cessa, comincia a sforzare la vista e non appena è in grado di articolare una parola, grida a occhi sbarrati: «Ma sei te? Tanto sorpresa di vedermi?» «È che non ci pensavo più che ti rivedevo, gioia. Credevo che eri morto e andato in cielo». «Perché?» «Mica mi pareva possibile che se campavi tutto sto tempo te ne stavi lontano da sta povera vecchia che c'ha la ricetta giusta per mischiarlo e stai pure a lutto. E che non ci potevi venire qua a consolarti con un paio di pipe? Ma magari t'hanno lasciato i soldi e te t'eri già consolato? No. Chi è che t'è morto, gioia? Un parente? E di che è morto, cocchino mio? Di morte, probabilmente». «Mica ci avanzano le parole stasera», esclama la donna con una risata propiziatoria. «E mordiamo pure. Ci abbiamo la luna storta perché ci serve una bella fumata. Ci abbiamo addosso la crisi, gioia. Ma questo è il posto che te la cura. Qua dentro la crisi te la fumi via». «E allora prepara», risponde il visitatore, «quando vuoi. Si leva le scarpe, si allenta la sciarpa e si stende di traverso in fondo al misero letto con la testa appoggiata sulla mano sinistra. «Adesso sì che t'è tornata la tua faccia», dice la donna compiaciuta. «Adesso sì che riconosco il mio vecchio cliente. C'hai provato a mischiartelo da solo tutto sto tempo, creatura? Qualche volta l'ho preso a modo mio. A modo tuo, te non te lo devi prendere mai. Guasta gli affari e ti guasta pure a te. Dove sta il mio calamaio, il mio ditale, il mio cucchiaino? Adesso la mia gioia cara se la fa una fumata come si deve». Iniziando il procedimento e cominciando a gorgogliare e a soffiare sulla debole scintilla racchiusa nel cavo delle mani, senza smettere, parla di tanto in tanto in tono soddisfatto, annusando. Quando è lui a parlare, lo fa senza guardarla. È come se i suoi pensieri già vagassero via nell'anticipazione. «Che ne dici, Pulcino? Te ne ho preparato un bel po' di fumo, eh? Parecchio. Quando te ci sei venuto la prima volta eri nuovo, no? Sì, quella volta me ne bastava poco. Ma poi te le sei fatte le ossa e piano piano te lo sei imparato a fumarti una pipa coi migliori che ci stavano, eh? Sì, e anche coi peggiori. È bella che è pronta. E cantavi anche che era una meraviglia le prime volte. Ti calava la testa e te ne andavi cantando come un uccello. Eccoti qua. Adesso è pronta, gioia». Dopo aver inalato qualche boccata in silenzio, con fare dubbioso, le chiede: «È potente come una volta?» «Di che parli, gioia? Di quello che ho in bocca? È lo stesso di sempre, stesso, identico. Non ha lo stesso sapore e ci mette di più. È che ci hai fatto l'abitudine». Lei si china su di lui e gli parla all'orecchio. «Ti ascolto. Che me l'hai detto adesso, sta a sentire. E io ti dico, adesso che sto qua, t'ascolto. Noi due si stava parlando che ci avevi fatto l'abitudine. Tutto questo lo so, stavo solo pensando, sta a sentire. Metti che hai qualcosa in testa, qualcosa che vuoi fare». «Sì, gioia, qualcosa che voglio fare? Ma non hai ancora deciso». «Sì, gioia. Puoi farlo o anche no, mi capisci?» «Sì». Con la punta di un ago smuove il contenuto del fornello. «Lo faresti con l'immaginazione, mentre te ne stai qua distesa a fumare?» Lei annuisce. «Lo farei e lo rifarei. Proprio come me. L'ho fatto e l'ho rifatto. L'ho fatto centinaia di migliaia di volte in questa stanza. Speriamo che ci hai provato piacere a farlo, gioia. Molto piacere». Lo dice con un'aria selvaggia e con uno slancio o uno scatto verso di lei. Impassibile, lei smuove il contenuto o riempie il fornello con la sua spatolina. Vedendola intenta all'operazione, lui ricade nella posizione di prima. Era un viaggio difficile e pericoloso. Era questo che avevo in mente. Un viaggio pieno di rischi e di insidie, attraverso abissi dove un piede in fallo sarebbe stata la fine. Guarda giù. Guarda giù. Lo vedi cosa c'è laggiù in fondo? Si è slanciato in avanti nel dirlo, indicando il pavimento, come in direzione di un oggetto immaginario sprofondato a infinita distanza. La donna guarda lui, mentre la faccia contratta da spasmi si accosta alla sua, e non dove punta il dito. Sembra sapere che influenza avrà la sua calma perfetta. Se è così, non si è sbagliata, perché lui torna a quietarsi. «Bene, te l'ho detto. L'ho fatto qui centinaia di migliaia di volte. Ma cosa dico? Milioni, miliardi di volte. L'ho fatto così spesso e per un tempo così lungo che quando è stato realmente compiuto non sembrava valerne la pena, tanto è finito in fretta. È questo il viaggio che ti ha tenuto lontano? Osserva quietamente. La fissa torvo mentre fuma e poi con sguardo appannato risponde: è questo il viaggio. Per un po' c'è silenzio. A volte ha gli occhi aperti, a volte chiusi. La donna gli siede accanto, molto attenta alla pipa che tutto il tempo ha tra le labbra. Ci giurerei, dice dopo che lui è rimasto a fissarla per qualche istante con una strana espressione negli occhi, come se la vedesse a una grande distanza invece che così vicina. Ci giurerei che te il viaggio l'hai fatto in tanti modi, se l'hai fatto così spesso. No, sempre in un solo modo. Sempre lo stesso? Sì. Nel modo che poi alla fine è stato quello vero? Sì. E te provavi sempre lo stesso piacere quando ci fantasticavi sopra? Sì. Per ora sembra incapace di risposte diverse da questo pigro, monosillabico assenso. Probabilmente per assicurarsi che non si tratti dell'assenso di un mero automa, lei inverte la forma della frase successiva. Non è che te ti stancavi, Gioia, e magari ti facevi un'altra fantasia, tanto per cambiare? Si sforza di mettersi seduto e le risponde: cos'è che dici? Cos'è che volevo? Cos'è che mi portava qui? Delicatamente lo fa stendere di nuovo e prima di restituirgli la pipa che ha lasciato cadere ne ravviva la brace soffiando, poi dice con voce suadente: sicuro, sì, adesso ti seguo. È che andavi troppo di fretta per me, ma adesso ci sono. Te qua ci venivi apposta per farti il viaggio e potevo anche arrivarci, no? Lo vedevo quanto c'eri attaccato. Lui risponde, prima con una risata, poi con un feroce digrignare dei denti. Sì, ci venivo apposta. Quando non sopportavo più la mia vita, venivo a cercar sollievo e lo trovavo. L'osserva, cauta, come saggiando mentalmente il terreno per la prossima osservazione. È questa. Ci stava un compagno di viaggio, Gioia. Scoppia in una risata acuta o un urlo piuttosto. Pensare, grida, che fedele compagno di viaggio è stato, senza saperlo. Pensare a tutte le volte che ha fatto il viaggio senza mai vedere la strada. La donna si inginocchia per terra e poggia il mento sulle braccia conserte sul copriletto, attaccata a lui. In questa posa acquattata lo sorveglia. La pipa gli sta cadendo di bocca. Lei gliela rimette a posto e mettendogli la mano sul petto lo muove piano in qua e in là. E allora lui parla, come se lei avesse parlato. Sì, prima facevo sempre il viaggio, poi cambiavano i colori e cominciavano i paesaggi sconfinati e i cortei scintillanti. Non potevano cominciare prima di essermene liberata la mente. Fino a quel momento non avevo spazio per altro. Ancora una volta ammutolisce. Ancora una volta gli mette la mano sul petto e lo muove piano in qua e in là, come un gatto che stimoli un topo mezzo morto. Ancora una volta parla, come se lei gli avesse parlato. Che cosa? Quando alla fine si avvera, passa così in fretta che per la prima volta ti sembra irreale. Senti? Sì, Gioia, ti ascolto. Il tempo e il luogo sono quelli giusti. È in piedi e sussurra come fosse al buio. Il tempo, il luogo e il compagno di viaggio, suggerisce lei adattando il suo tono a quello di lui e tenendolo delicatamente per il braccio. Come faceva a essere giusto il tempo se non c'era lui? Zitta, il viaggio è finito, è tutto finito. Così in fretta? È quello che ho detto, così in fretta. Aspetta un attimo, questa è una visione. Dormo e la faccio passare. È stato troppo breve. troppo facile. Devo avere una visione migliore di questa. Questa è la più misera di tutte. Niente lotta, niente paura, niente supplica. Eppure, questo non l'avevo mai visto prima. Visto cosa, Gioia? Ma guardala. Guarda che povera, meschina, misera cosa è questa. Questa deve essere vera. È finita. Ha accompagnato le parole incoerenti con gesti stravolti e privi di senso e giace sul letto come un sasso. La donna tuttavia non si accontenta. Ripetendo i suoi atti felini, lievemente muove di nuovo il corpo e ascolta. Lo muove di nuovo e ascolta. Lo muove di nuovo e ascolta. Sussurra e ascolta. Vedendo che per il momento non vi è modo di riscuoterlo, lentamente si alza in piedi, contrariata, e scostandosi gli colpisce leggermente la faccia col dorso della mano. Ma si allontana solo fino alla poltrona accanto al camino. Ci si siede col gomito appoggiato al bracciolo e il mento poggiato sulla mano, intenta a osservarlo. «Te l'ho sentito dire una volta», gracchia sottovoce. «Te l'ho sentito dire una volta, quando che ci stavo distesa io dove adesso ci stai te. E eri te che cercavi di capirmi. Incomprensibile. Io ti ci ho sentito a dirlo, anche di quegli altri due. Ma mica ce la puoi avere sempre la sicurezza? Mica sempre, bello mio». Senza batter ciglio, come una gatta concentrata, subito dopo aggiunge: «Non è più così potente come una volta? Ah sì, forse all'inizio. Lì magari c'hai pure ragione. È la pratica che ti fa perfetta. Magari mi sono imparata il segreto per farti parlare, Gioia. Forse è vero o forse no, ma lui non dice più niente. Giace pesante e muto, mentre gli spasmi di tanto in tanto gli deformano la faccia e le membra. La candela maleodorante si consuma. La donna prende tra le dita l'estremità che sta per spegnersi e la usa per accenderne un'altra. Pigia nel portacandela il moccolo sfrigolante e gocciolante e lo calca giù con una nuova candela, come una strega che stia caricando la sua arma fetida e indecente. Anche la nuova candela si consuma e lui continua a giacere insensibile. Infine, ciò che resta dell'ultima candela viene spento con un soffio e la luce del giorno si affaccia sulla stanza. Non è affacciata da molto quando lui si tira su a sedere, tremante e infreddolito. Lentamente riprende coscienza di dove si trova e si prepara ad andarsene. La donna riceve quanto le paga con un riconoscente «Benedetta, benedetta la mia gioia!» e sembra, sfinita com'è, che si appresti ad andare a letto quando lui esce dalla stanza. Ma ciò che sembra può essere vero o falso. In questo caso è falso, poiché non appena gli scalini ha smesso di scricchiolare sotto i suoi piedi, lei gli scivola dietro, mormorando con enfasi: «Una seconda volta non mi scappi!» Dal cortile si esce solo da dove si è entrati. Da dietro il portone lo spia con uno sguardo strano. Lui non si guarda indietro e scompare con passo malfermo. Lei lo segue, lo spia dal cortile, vede che continua a procedere barcollando senza girarsi e non lo perde di vista. Arriva dietro Aldersgate Street, dove bussa una porta che immediatamente si apre. Lei si acquatta dentro un altro portone, sorvegliando quello da cui è entrato, e capisce senza difficoltà che si tratta di un alloggio temporaneo. La sua pazienza dura inesausta per ore. Per sostenersi può comprare del pane a pochi passi da lì e lo fa, mentre il latte lo compra da un venditore che le passa accanto. Lui esce di nuovo a mezzogiorno, ha un altro vestito, ma non porta bagagli, quindi non torna in campagna, non subito. Lo segue per un breve tratto. Improvvisamente esita. poi torna indietro con sicurezza ed entra decisa nella casa da cui è uscito. «C'è il signore di Cloisterham?» «Appena uscito.» «Peccato. Quando torna a Cloisterham il signore?» «Stasera alle 6.» «Ogni bene, grazie. Che il signore dia prosperità a un esercizio dove con tanta cortesia si risponde a una domanda cortese anche se a farla è una poveretta.» «Una seconda volta non mi scappi. L'altra volta ti ho perso quando l'omnibus che ci sei salito si è fermato tra la stazione e la città, quasi alla fine del viaggio. Neanche lo sapevo se te eri andato dritto in città. Adesso sì che lo so, caro mio signore di Cloisterham. Stavolta arrivo prima io e ti aspetto. Ho giurato che una seconda volta non mi scappi.» Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.